Radio Wombat Senza Frontiere, trasmissione sull'internazionalismo che va in onda in diretta il lunedì alle 14, poi il mercoledì alle 17 e il venerdì alle 9 in replica. Da Barcellona una intervista a Victor su La Diretta, la pubblicazione catalana dei movimenti sociali. I pezzi musicali che ascolterete sono di Adala, Mon o Non Mon. Qui tra l'altro è illustrato il pezzo, una bella videoclip che potete trovare sul web, e Silvia Tomás Trio, País Normal. Buongiorno a tutti e tutte, oggi per Sin Fronteras, Sense Fronteres, miglior dit in catalano, siamo con Victor. Ciao Victor. Ciao. Un po' per parlare del suo percorso e del percorso soprattutto della Diretta, questo giornale. Allora Victor, ci spieghi un po' chi sei e come sei arrivato alla Diretta? Allora, diciamo, io sono un ragazzo italiano, così è un po' strano, però essenzialmente io mi sono trasferito a Barcellona nel 2009-2008 per fare un dottorato, perché all'epoca studiavo ingegneria e ho sempre avuto, diciamo, una parte abbastanza politica della mia vita, in gioventù, anche se vengo da un paese molto piccolo dell'estrema provincia del nord Italia, militato nella gioventù del Partito di Riformazione Comunista, è un fatto, però essenzialmente ho sempre cercato di essere un pochettino attivo dove ero a Milano, dove studiavo, anche se facevo poca cosa, e qui a Barcellona con i processi integrativi ho cercato di partecipare un pochettino nei vari momenti di militanza che c'erano nel quartiere. Poi nel 2011 per me arriva il movimento dal 15M, quindi dell'Indignado, sull'occupazione di Piazza Catalogna, una serie di assemblee infinite, anche diciamo tutta una formazione su come qui venivano gestite le assemblee, come si costruivano, diciamo, progetti alternativi del mondo che volevamo, dei progetti, delle critiche alla situazione sociale. Iniziando un pochettino con questa militanza, diciamo, di base, che poi da Piazza Catalunya viene spostata nei quartieri, entro in contatto anche con una serie di altri spazi molto più libertari e spazi occupati, come ad esempio il Banco Espropriato, come ad esempio la Barracchetta, che sono aree differenti, una della sinistra indipendentista, l'altra più libertaria, e ho sempre avuto una passione per la fotografia, quindi inizio a fotografare questi spazi. Nel 2012 inizio già sapevo che esisteva La Diretta, che era già un giornale, diciamo, abbastanza di riferimento, decido di fare un passo un pochettino in avanti e gli spedisco alcune foto, cerco di entrare in contatto nel collettivo, capisco un pochettino come funziona e inizio a partecipare in questo collettivo che essenzialmente si occupava di contro di informazione, di giornalismo, di controinformazione, però sempre con una visione, diciamo, abbastanza non propagandistica, però critica rispetto all'informazione reale che viene data qui a Barcellona. Inizio a inviare delle foto, quindi inizio a collaborare come fotografo nella Diretta, diciamo, dal 2012 fino al 2014, quando per una serie di casualità inizio a coordinare l'area di fotografia. Ero uno di quelli che già partecipava da un paio di anni, l'antico coordinatore decide di smettere di fare questo, diciamo, militante, questa responsabilità militante più o meno, e inizio io a coordinare La Diretta, la sezione di fotografia della Diretta, quindi trovare i fotografi per coprire le azioni, le manifestazioni, scegliere quale utilizzare, quale pubblicare, e così inizio praticamente. Poi il tempo passa, siamo già nel 2019, quindi in realtà sono da 7 anni che faccio delle fotografie per La Diretta, quindi da quei 7 anni che ho smesso di fare il dottorato in ingegneria e ho iniziato a fare il fotogiornalista della Diretta principalmente. Senti, Victor, che cos'è La Diretta e come nasce? Spieghiamo un po' alle ascoltatrici e agli ascoltatori italiani, perché magari lo conoscono poco. Allora, La Diretta, diciamo, è una... La definizione che noi utilizziamo La Diretta è siamo un giornale per la trasformazione sociale. Nasce nel 2006 da parte dei movimenti sociali che si rendono conto del fatto che manca uno strumento per dare voce a tutti i collettivi che erano silenziati. All'epoca c'era stato, diciamo, era la parte finale del grande movimento Occupa degli anni 90 e primi anni 2000, che era sempre stato fortemente criminalizzato dai giornali e diciamo da tutti i mezzi di informazione catalani, barcellonesi, anche dello Stato spagnolo. Quindi dalla base si inizia a pensare a un progetto differente di fare il giornalismo perché, come si dice qui, se tu non fai il giornalismo te lo fanno. E quindi l'intenzione era iniziamo a parlare di quello che ci succede ma in maniera rigorosa. Quindi abbiamo sia un punto di vista, ma che prendiamo la posizione di una falsa obiettività, abbiamo dei punti di vista, abbiamo delle ideologie che sono essenzialmente le lotte di base dai quartieri, ma anche più ampie a livello di rottura nazionale contro le oppressioni, di sostegno a anche altri popoli che soffrono, a popolazioni migliori, oppressioni peggiori, come ad esempio i popoli palestinesi o curdi, e iniziamo a parlare di queste cose per informare le persone che abbiamo attorno e anche per fare, diciamo, una piccola parte come informazione. Inizia come una settimanale in versione cartacea, era 2006. Poi nel 2011 diventa anche un portale web, continua a essere una settimanale fino a 2014, quando per una questione di, diciamo, crisi di forza umana, perché era abbastanza complicato avere un portale web basato sulla militanza, un settimanale sempre basato sulla militanza, si decide di fare un cambio, quindi iniziare un processo di cooperativizzazione, contemporaneamente passare a essere un quindicennale, quindi con una serie di articoli di investigazione, quindi di indagine, di richiesta nella versione cartacea e invece nella versione web delle informazioni più di attualità e un pochettino più rapide. Il processo di cooperativizzazione, diciamo, dura diversi anni, anche perché l'idea era vogliamo partecipare nell'economia sociale solidale, quindi opporci anche come nostro modello per non autosfruttarci e per poter partecipare in qualche maniera positiva a tutta la rete di cooperative che c'è nella Catalogna, che ha più di 100 anni di storia su molti ambiti, non solo quelli agrari, ma anche quelli di servizi, quindi è una realtà abbastanza interessante e alla fine del 2016 diventiamo essenzialmente una cooperativa in cui ci sono, se non sbaglio, 9 soci cooperativi come lavoratori e diciamo circa 200-250 usuari della cooperativa come in realtà sempre soci della cooperativa che portano capitale e pensano un pochettino anche loro cosa vogliamo fare nelle decisioni dell'assemblea, perché essendo cooperativa tutti i soci della cooperativa possono portare le questioni nell'assemblea, possono dibatterle, possono fare delle richieste e poi essenzialmente diciamo il gruppo dei lavoratori e dei collaboratori che sono anche un settore molto molto importante che apportano diciamo il loro lavoro diciamo non remunerato, quindi non pagato sotto forma di capitale sociale. Si decide come fare questa controinformazione, queste indagini, questi articoli, questo giornalismo profondo. Ho capito. Senti, le varie sezioni della diretta che ne ha varie, ce le spieghi un po' così velocemente? Allora, diciamo, nella versione cartacea abbiamo essenzialmente la prima sezione che è la punta. Quindi viene chiamata la punta di lancia, quindi diciamo il nostro gioiellino che è la FONS, quindi a fondo è un reportage o un'inchiesta di 8 pagine, in cui essenzialmente trattiamo un tema che sta anche nella prima pagina. Recentemente siamo stati premiati dalla città di Barcellona con il premio Città di Barcellona, giustamente, per un reportage che abbiamo fatto spiegando come si svolgeva, diciamo, la lotta per la rimunicipalizzazione dell'acqua. Abbiamo scoperto che l'azienda Agbar, Acque di Barcellona, aveva infiltrato una serie di persone dentro le assemblee della grande dell'organizzazione Agua es Vida, quindi Acqua e Vita, che è sempre stata, diciamo, una piattaforma di attivisti che lottavano per la municipalizzazione dell'acqua, per averne informazioni, e contemporaneamente era riuscito anche a ingannare alcuni attivisti di base per cercare di pulirsi un pochettino l'immagine, quindi pubblicando un libro in cui questi attivisti dicevano che acqua era una bella cosa. Noi abbiamo spiegato cosa è successo, siamo riusciti un pochettino a informare anche su queste persone che erano infiltrate dentro l'assemblea, quindi abbiamo spiegato come in realtà dei poteri molto forti, come delle aziende che privatizzano le acque, che è un bene comune, cercano sempre di utilizzare delle tecniche un pochettino non troppo oneste per mantenere il loro potere. Dopo la sezione Afonso, che è una delle più importanti che abbiamo, c'è un'altra grande sezione che si chiama Mirage, quindi Specchi, che essenzialmente è un'intervista in profondità di 4 pagine. Dopodiché abbiamo, sempre in versione cartacea, una sezione che si chiama Cruïlles, che sarebbe Incroci, una sezione in cui cerchiamo anche di dare peso a tutti i progetti positivi in tutto l'ambito del territorio dei paesi catalani. Progetti che possono essere da non so, persone che cercano di ripopolare alcuni paesi un pochettino svuotati dai processi di concentrazione della popolazione nelle grandi città per sviluppare cooperative o associazioni e a ridare vita al territorio che, diciamo, il territorio in cui tutti viviamo o a cooperative che si occupano di aiutare persone in difficoltà facendole partecipare, quindi non in maniera assistenzialista e istituzionale, quindi sono essenzialmente una serie di grossi o anche piccoli progetti in tutto il territorio che hanno ottenuto delle piccole vittorie che cerchiamo di celebrare. Dopodiché c'è la sezione Rodamon, che è essenzialmente una sezione internazionale in cui si parla dell'attualità o anche di alcuni piccoli approfondimenti su questioni in tutto il territorio del globo terrestre. Dopodiché c'è la sezione di impressions, quindi di opinioni, in cui ogni numero in maniera alternata facciamo o un dibattito su alcune delle domande, come ad esempio qual è la strategia migliore per confrontarsi all'estrema destra, facendo delle manifestazioni tutte le volte che scendono per strada o facendo controinformazione, quindi per portare dei dibattiti all'interno anche dei movimenti sociali stessi, e in alternativa ci sono anche sempre degli articoli, diciamo, abbastanza lunghi di riflessione su alcune tematiche, come può essere ad esempio il poliamore. In che situazione è, come sta, che cos'è, anche spiegarlo per molte persone, o via dicendo, articoli di opinione essenzialmente. Poi c'è anche la penultima sezione, che è la sezione di espressione, quindi cultura, in cui c'è un grosso tema importante, una serie di recensioni culturali in tutto il territorio dell'ambito dei paesi catalani, e poi diciamo, l'ultima pagina in cui c'è un'altra intervista un pochettino più corta su un personaggio che abbiamo trovato abbastanza interessante per una parte delle cose che può spiegare, come ad esempio una delle ultime è stata, se non sbaglio, su una militante basca che è andata poi in Nicaragua per dare sostegno alla lotta dell'epoca, e quindi spiega un pochettino come lo fece, per quale motivo, quali sono le sue ragioni. Quindi questa è, diciamo, la versione cartacea che esce ogni 15 giorni. E poi esiste anche una versione, diciamo, in web, con una pagina web che ora stiamo ricostruendo di nuovo grazie anche a un'altra cooperativa del País Vasco che si chiama Talayos, in cui essenzialmente lì abbiamo una serie di tematiche come semplicemente l'attualità, i temi di internazionale, alcuni piccoli reportage e alcune fotogallerie delle manifestazioni che possono succedere o di alcune tematiche che ci possono interessare. Sì, la diretta prende molti, molti campi, l'hai spiegato benissimo. Però mi interessa sapere come, quando si scrive un articolo, no? Siete cooperativa, siete assemblea, siete tutte e due le cose insieme, come hai detto ben tu. Quindi, quando si scrive un articolo, si fa un'inchiesta a Fons, per esempio, e si dà libero spazio alle iniziative dei collaboratori e delle collaboratrici, c'è una redazione che decide, come funziona questa cosa? Noi siamo una abbastanza particolare nel nostro modo di funzionare perché esiste sì una redazione, però le decisioni vengono quasi sempre prese in maniera collettiva tramite il consiglio della redazione che si svolge attualmente tutti i giovedì sera. Essenzialmente lì vengono proposti i temi e collettivamente si parla un pochettino e si pensa un po' come trovare il modo corretto per trattare il tema, che dubbi ci possono essere, che contatti qualcuno potrebbe avere per cercare di metterli in comune. Quindi non solo vengono lanciati dei temi che ogni tanto arrivano anche tramite email, ma soprattutto si cerca di pensare agli articoli, ai temi, ai reportage e lavorarli in maniera collettiva. Dopo che un tema è stato più o meno pensato nel consiglio di redazione, poi iniziano tutte le dinamiche, diciamo, di coordinazione, quindi si parla con fotografia, si parla con i disegnatori per fare delle infografie, si parla con la sezione di audiovisuale se è il caso di fare dei video, quindi in realtà non esiste una linea di comando verticale in cui si propone un tema e il direttore dice se va bene o non va bene, però sempre va, o almeno quasi sempre, va discusso e deciso collettivamente, anche per portare i dubbi, perché molte tematiche che si possono toccare possono avere questioni importanti dentro anche gli stessi movimenti o fuori. Non so, ad esempio, fra poco ci sarà la vaga dell'8 marzo, lo sciopero dell'8 marzo, e giustamente ci sarà un tema abbastanza complesso che sarà le due posizioni tra abolizioniste sulla questione della prostituzione, mentre invece ci sono le, non so se dire, regolamentiste o quelle che cercano di regolare il mercato delle lavoratrici sessuali. Quindi lì c'è un dibattito, quindi se dobbiamo toccare una tematica su questa questione dobbiamo trovare il modo per farlo perché diciamo, tutti ne possano essere contenti, non ci sia una dinamica per invisibilizzare o silenziare una parte di qualche lotta e avere un equilibrio tra le fonti, tra le basi, per come viene trattato il tutto. Capito. L'hai detto prima, no? La diretta è iniziata cartacea, poi cartaceo web, adesso cartaceo web, appunto, quindicinale, il cartaceo e poi il web praticamente tutti i giorni, no? No, e alcuni adesso nel mondo di internet non pensate che il cartaceo sia un modello un po' superato in questa epoca? Come la vedete voi? Noi pensiamo che è chiaro che l'informazione rapida che vola sulle reti, sui social network, sulle reti sociali, arriva da tutte le parti, ma consideriamo che alcune tematiche, soprattutto quelle più di inchiesta, di investigazione, di ricerca, richiedono del tempo non solo per farle, ma anche per leggerle. Sarebbe molto superficiale trattare alcune tematiche con un articolo su una pagina web. Ed è anche difficilmente leggibile perché, ad esempio, 8 pagine saranno circa 16.000 caratteri. Nessuna persona si legge 16.000 caratteri su una pagina web perché non ce la fa. Sì. E legge 5.000, 7.000, poi si rompe le scatole e le lascia da parte. Quindi, in realtà, anche la versione cartacea, anche se sembra qualcosa un po' vecchio, cerchiamo sempre di mantenere una linea grafica che sia interessante e accattivante, però consideriamo che sia importante perché è lì che le persone si possono fermare un attimo, riflettere, ottenere delle informazioni che non hanno e trovare un pochettino le cose un pochettino più in profondità. Se no, il rischio è sempre di fare un giornalismo molto più detta all'inglese clickbaiting, con dei titoli che cercano di prendere più visite possibile, più click possibile, ma non è la nostra intenzione. Noi siamo quelli per la trasformazione sociale, quindi vogliamo trasformarci, trasformare la società, portare alle riflessioni e portare anche ai cambi, dando peso a chi non viene ascoltato dai media mainstream, ad esempio. Quindi noi, una delle campagne, quando abbiamo fatto 2 anni fa il cambio del disegno, era siamo una versione cartacea, quindi leggiamoci una versione cartacea perché è importante trovare i dettagli, le cose in profondità che lì ci sono e dall'altra parte no. Aprendo il giornale o la pagina web, insomma, risalta all'occhio che c'è della pubblicità, varia. Come funziona? Sai che questa cosa, insomma, nelle radio libere, soprattutto italiane, perché quelle che io conosco di più, non conosco altre realtà in altri paesi, c'è sempre stato un gran dibattito attorno alla pubblicità, fare pubblicità, come fare pubblicità. La diretta come si indirizza rispetto a questa cosa? Una prima cosa da dire è che in realtà essere un giornale vuol dire lavorare dentro un ambito di mercato che è essenzialmente a perdere, nel senso noi arriviamo giusti a pagare le spese, quindi non è che abbiamo dei grandi stipendi, tutt'altro, anzi. Utilizziamo comunque la pubblicità per 2 motivi. Il primo è il fatto che abbiamo deciso che non è la nostra base economica, non siamo un giornale come molti altri che decidono di prendere grosse entrate di capitali da parte di banche o da gruppi, da partiti politici e così in questo modo loro non possono parlarne male, essenzialmente è una dinamica un po' perversa, che se qualcuno ti paga tu non puoi poi sputare nel piatto in cui mangi. Noi decidiamo di avere un tetto massimo, se non sbaglio, del 15% di pubblicità, che oltretutto devono rispettare un stretto codice etico. Ad esempio devono essere quasi tutte delle cooperative, non devono avere, o devono essere associazioni o piccoli gruppi, non devono avere conflitti nell'ambito lavorale, quindi non devono aver, diciamo, licenziato dei lavoratori, poi essere stati soggetto di uno scontro da parte dei sindacati che difendevano i diritti dei lavoratori, e questo, diciamo, limita molto anche il nostro ambito di pubblicità. Noi abbiamo le pubblicità essenzialmente di molte cooperative che sono dentro la nostra rete di economia sociale solidaria e cooperativista e alcune altre associazioni o a qualcun altro gruppo, diciamo, di lotta contro informazione e quant'altro. Quindi in realtà è una mezza pubblicità, però reale, nel senso che cerchiamo anche noi, tramite il nostro mezzo di comunicazione, il nostro media, di informare su altre piccole realtà, dandogli un piccolo spazio che comunque è abbastanza limitato. Certo. Senti, prima hai parlato un po' dell'audiovisuale e ho visto la diretta anche un canale di YouTube. Se ci spieghi un po' come funziona e in generale come funziona l'audiovisuale per la diretta che appunto ha il canale web, no? Sì, la sezione di audiovisuale è una sezione che comunque è cambiato molto negli ultimi anni. Inizialmente nasceva come base militante da parte di alcune che volevano invece di fare delle foto e scrivere dei testi, poter fare una forma audiovisuale per raccontare quello che succedeva. Lì sempre la questione è limitata a dove mettiamo poi i video che noi produciamo, che tipo di video produciamo e con che intenzione cerchiamo di farlo. Abbiamo deciso di utilizzare YouTube essenzialmente per una serie di ragioni, come ad esempio la comodità, il fatto che a livello tecnico abbiamo dei problemi per poter avere una piattaforma web stabile con un software libero e che non costa un fracasso di soldi per poter pubblicare i video che mettiamo. Scegliamo comunque di non ottenere dei guadagni da YouTube, però permettendo la maggior diffusione possibile. Infatti una delle cose che abbiamo iniziato a fare negli ultimi anni sono i documentari della diretta, in cui cerchiamo di trattare non con un video corto di 5 minuti, 4 minuti, una piccola promozione del progetto, di raccontare qualcosa in profondità. Uno probabilmente il più famoso è il documentario del 1° di ottobre, in cui parla delle cariche della Polizia Nazionale Spagnola, della Guardia Civile, ai votanti del referendum di autodeterminazione in Catalogna, e l'abbiamo fatto con l'intenzione che tutte le persone potessero vederlo, e abbiamo pensato che era la piattaforma migliore per farlo. Anche lì sempre i temi di audiovisuale vengono trattati nello stesso modo, si propongono nel consiglio di redazione o se c'è una tematica che può essere interessante si decide di utilizzare maggiormente il linguaggio dell'audiovisuale piuttosto che quello scritto, e così si cerca di avere un modo differente sempre di spiegare delle realtà che ci circondano o che consideriamo interessanti. Quasi tutto viene fatto, senza quasi tutto, tutto viene fatto in maniera militante. Siamo riusciti col tempo a recuperare con i piccoli soldi dai nostri budget, e allora abbiamo un treppiede in comune, un microfono per tutti i collaboratori di audiovisuale, però non ci occupiamo di fare, non so, i video di campagna elettorale di nessun partito. Yo, això és a Dala des de la ciutat morta. Per nou món que portem dins els nostres cors. Escolta, Des de l'hort i poc a poc va creixent més fort. Massa cop rebuts però no han mort. El nou món que portem dins del cor. Del cor. I puc sentir com la terra batega en mi. Cada batec mostra un nou camí. I escriure tot el que no es pot dir. I així, extra, extra, s'ha escrit un nou diari. Parla de nosaltres sense cap intermediari. Diu que es desperta una família menys al barri. La vida del veïnat o la bossa d'un propietari. Corre la notícia, buiden edificis. No pots tenir sostre si no en treuen benefici. Lliures i rebels, tenim el nostre seguici. Gent organitzada en una Barcelona en crisi. Passa la pàgina, tens receptes de cuina. Espais comunitaris on abans hi havia ruïna. Deixem l'heure créixer a la vella reixa. La llibertat ha de renéixer. Neix a l'hort i poc a poc va creixent més fort. Massa cop rebuts però no han mort. El nou món que portem dins del cor. Del cor. Puc sentir com la terra batega en mi. Cada batec mostra un nou camí. Escriure tot el que no es pot dir. Així. I les pàgines centrals parlen de cultura. Rimes, tuits i titelles colpejats per la censura. Falsa democràcia, gust a dictadura. La vella està que encara dura. I ens queda la ràbia, ràbia. De sentir tanta la i tanta gàbia, gàbia. Molts polítics, molta làbia, làbia. Però no et deixis confondre, sigues sàvia. Tenim memòria, tenim veu i tenim vista. Fem nostra la història, cap carrer amb nom d'esclavista. Organitzada i sàvia és la ciutat que neix als barris. De Sants fins al Besòs, del Raval fins a Nou Barris. Per una Barcelona organitzada, rebel, sàvia i combativa, escolta. Nosaltres, parlat dels nostres carrers, hem escrit de nou la història, un relat contra el poder. Parla de tu i de nosaltres, parlat dels nostres carrers. I neix a l'hort, i poc a poc va creixent més fort. Massa cop rebuts però no mort. El nou món que portem dins del cor, del cor. Senti, un'altra cosa che secondo me è molto interessante è la scuola della diretta, no? Che si fa più o meno una volta all'anno. Ci spieghi un po' come funziona, come vengono pensati i temi che poi vengono sviluppati nella scuola? Quello che è successo è che col tempo ci siamo resi conto che in realtà molte persone che si avvicinavano al mondo del giornalismo iniziavano a scrivere un pochettino alla diretta e imparavano come funzionava, diciamo, la dinamica giornalista critica e di qualità. Magari facevano fatica a entrare in altri giornali, però inizialmente iniziavano a scrivere con la diretta. Molti venivano dall'area militante e avevano più un'intenzione, diciamo, spinta dalle proprie ideologie, dalle proprie opinioni, e quindi non facevano dei temi molto molto giornalistici, erano molto più opinabili con punti di vista dell'autore, non tanto una cosa critica e rigorosa. Quindi col tempo abbiamo deciso di fare qualcosa che era utile, diciamo, un pochettino per tutti. Abbiamo deciso di fare questa scuola diretta, che essenzialmente è una giornata o due giornate in funzione delle edizioni, del tempo che abbiamo e della forza anche che abbiamo, in cui cerchiamo di parlare di come si fa, secondo noi, bene il giornalismo su alcune tematiche. Quindi, ad esempio, 2 anni fa l'abbiamo fatta a Barcellona, l'anno scorso a Valencia, e abbiamo portato, ad esempio, una persona che è molto brava a fare degli articoli, soprattutto delle interviste, spiegando come lui pensa di fare un'intervista, quindi cosa pensa la location dove fare le foto, quanti libri si legge, come pensa di fare le domande, e lo spiegava a delle persone che si iscrivevano in questo corso, che aveva dei prezzi abbastanza popolari, perché alla fine non erano fatti per avere delle entrate economiche nostre, ma essenzialmente per pagare le persone che venivano a spiegare come si fa il giornalismo, per permettere a tutte le persone che si vogliono avvicinare al mondo del giornalismo o della controinformazione o vogliono imparare qualcosa, di potersi avvicinare e scoprire qualcosa di nuovo. Quindi l'intenzione era, la diretta non solo è un giornale che si fa i fatti suoi, ma anche, sempre per trasformare, deve dare gli strumenti un pochettino a tutti, anche alle persone che vogliono iniziare a scrivere qualcosa o vogliono anche interessarsi di come funziona il mondo del giornalismo, perché spesso viene visto come una cosa un po' una scatola nera. E quindi quasi tutti gli anni cerchiamo di portare alcuni dibattiti, alcune tematiche, per permettere a tutte le persone che vogliono provare anche a scrivere per la diretta, che è quello che poi in realtà desideriamo, avere delle persone che decidano di collaborare con il nostro progetto per renderlo sempre più forte, sempre più interessante, sempre più plurale, dargli degli strumenti basici, quindi come si fa una cronica, come si fa un reportage, perché sembra una sciocchezza, perché sono concetti che tutti hanno abbastanza chiaro, però in realtà non è così. C'è molta gente che spaccia degli articoli di analisi fortemente opinativi come dei reportage, quando in realtà non cita al massimo 2 fonti, o qualcuno che fa delle interviste e non pensa non so, cosa deve leggere della persona che vuole intervistare, che cosa gli vuole chiedere, per quale motivo. Sono tutta una serie di piccole cose che noi cerchiamo anche di passare, per permettere che tutti possano imparare un pochettino qualcosa di più dal giornalismo, non solo come utenti finali, ma anche come persona nel mezzo, che magari potrebbe iniziare a scrivere, però almeno capisce come è stato fatto l'articolo che legge. Certo. Senti, vabbè, la diretta l'abbiamo detto, non so se l'abbiamo detto in realtà, in catalano. Il quadro territoriale sono i paesi catalani. Perché e come nasce questa esigenza? La prima domanda. E poi la seconda, io penso che anche tu, a me succede spesso, no? Quando torno in Italia e parlo con dei compagni, compagne lì in casa mia o più in qualsiasi posto, mi dicono: ma perché non lo fate in castellano? Così potrebbero leggere molta più gente, perché non lo fai in castellano? Quindi volevo sapere un po' qual è il motivo che il marco territoriale sono i paesi catalani, e qual è il motivo, insomma, rispetto a questa domanda, che ne pensi? Ti dico, quando sempre sento questa frase che anche a me dicono: ma perché non lo fate in castigliano? Sempre mi chiedo: ma allora per quale motivo i movimenti italiani non fanno tutte le cose in esperanto e non parliamo tutti in esperanto? Perché in realtà non lo sappiamo, nel senso, sfortunatamente ognuno nasce, cresce in un posto e ha una lingua che utilizza principalmente. In questi territori in realtà c'è anche il bilinguismo, quindi è una questione un pochettino più complessa, però c'è una tendenza a esprimersi meglio nella lingua che uno meglio conosce. E quindi essenzialmente, secondo me questa è una domanda che è fatta un pochettino dal classico punto di vista del: il catalano è un dialetto, non una lingua, quindi non ha senso utilizzare questo dialetto, che è un retaggio, diciamo, della cultura italiana, di come ha trattato le lingue minori, minoritarie, in tutto il territorio della penisola. Quindi c'è questa cosa qui che è un po' paradossale. A me, quando mi dicono questa cosa, vi dico: ok, va bene, allora domani facciamo tutte le assemblee in inglese, okay? Ci stiamo. In realtà sappiamo perfettamente che no, perché la nostra lingua è l'italiano e quindi facciamo le assemblee nella nostra lingua per capirci meglio. Nello stesso modo, la diretta nasce essenzialmente a Barcellona, nel quartiere di Sants, da molte persone che erano dei movimenti sociali e scelgono anche una decisione non solo pratica di parlare nella lingua che controllano, che utilizzano, che è quotidiana, che è la lingua che è la loro lingua essenzialmente, ma anche con una ragione politica, nel senso la lingua catalana è stata una lingua che ha sofferto la dittatura linguistica del castigliano nell'epoca franchista e anche in epoche anteriori, che è sempre stata lasciata in disparte e che giustamente è sopravvissuta, che è sopravvissuta anche grazie a un grandissimo sforzo di buona parte delle persone che volevano mantenere viva un elemento culturale, come la lingua che utilizzavano per parlare. Quindi la intenzione è cerchiamo di dare peso a questa lingua, che è quella che noi utilizziamo. Probabilmente arriveremmo di più se parlassimo in castigliano, è vero, però perderemmo tutta quella bellissima ricchezza che c'è nella lingua catalana e anche tutti quei legami che ci sono tra le persone che parlano la stessa lingua, perché comunque il territorio dei paesi catalani, che è diciamo questa idea territoriale sviluppata nel paese valencià, quindi nel territorio di Valencia, che identifica che valenziani, catalani, persone che vivono nelle isole Baleari e Pitiuse, gente di Catalogna Nord e gente di Alghero, hanno qualcosa in comune, li unisce in qualche modo, che è questa lingua. Quindi in realtà non è una barriera per dire noi siamo meglio, voi siete peggio, però è una cosa che ci accomuna, quindi cerchiamo di difenderla perché è una cosa interessante. E politicamente l'intenzione è parlare di tutti questi territori, perché quasi sempre c'è un disprezzo rispetto alle persone che parlano in catalano. Una delle frasi che sempre io ho sentito nei primi anni che ero qui, 2008-2009, quindi quando ancora la questione indipendentista in Italia non se ne parlava assolutamente, quando qualcuno parlava in catalano la risposta classica era parlami in cristiano, che ti lascia anche un pochettino pensare che cosa vuol dire parlare in catalano, che non è una cosa cristiana, ben fatta, eccetera, eccetera. È sempre anche lì un retaggio del franchismo importante. Essendo noi antifascisti, antifranchisti, lo utilizziamo anche come uno strumento in più per criticare. Poi consideriamo che, ora vi dico una cosa che è uscita un paio di settimane fa, sono state pubblicate per la prima volta in, credo, un decennio, il numero degli abbonati di molti giornali di ambito nazionale nello Stato spagnolo, tra questi La Razón, giornale di estrema destra, liberale, abbastanza famoso, ha 100 abbonati meno di noi. In realtà questo discorso del saranno di più, probabilmente circola di più a livello di redi sociali, ma hanno 100 abbonati meno di noi, hanno una redazione molto più grande, coprono tutto il territorio dello Stato spagnolo, noi ci occupiamo di un territorio molto più piccolo, quindi in realtà ci sono delle differenze, secondo me si vede anche dalla tipologia di progetto che è stato costruito. Se noi difendiamo la lingua, cerchiamo di difendere questa lingua e di anche permettere alla gente di utilizzare questa lingua, perché no? Cioè, nel senso, imparare una lingua in più non è un problema, anzi, tutt'altro. Cioè, dal mio punto di vista è figo, ti apre delle porte, ti fa conoscere più gente, scopri cose nuove, perché chiudersele? Quindi in realtà ci sono molte ragioni dietro il fatto di scrivere in catalano. Certo. Senti, allora ti faccio invece l'osservazione dell'avvocato del diavolo su quello che dicono alcuni compagni e compagne negli altri luoghi dei paesi catalani, che la diretta sarebbe troppo Barcellona centrica, si parlerebbe troppo di Barcellona. Che come rispondi tu a questa, insomma, questa frase che avrai sentito anche tu sicuramente? Che è vero, che è una critica corretta e che pian piano stiamo cercando di migliorare, giustamente da settembre siamo riusciti a poter pagare una persona che ora è a mezza giornata, che è Esther, che è una collaboratrice, ora siamo coordinatrice della sezione del Paese Valencià, e quindi è la critica che è corretta. In realtà è una critica corretta, ma che è legata anche alla storia della diretta stessa. La diretta nasce, come vi ho detto, nel quartiere di Sants, e io che sono del quartiere, due quartieri più in là, che è Gràcia, a volte ho veramente dei problemi per dire dobbiamo uscire da questo quartiere e andare in un altro quartiere, perché comunque c'è un legame, ci sono una serie di contatti, ci sono più di 10 anni di storia che lo legano molto in un quartiere. La critica è corretta e le critiche vanno ascoltate, quindi pian piano stiamo cercando di includere sempre di più anche una visione più territoriale, più ampia, non solo parlare di Barcellona, ma anche iniziare a parlare di tutto quello che è dentro il territorio dei paesi catalani, anche cercando di fare delle connessioni, quindi vedere se ci sono dei progetti interessanti tanto nel Paese Valencià come nella Catalogna, come nelle isole, e parlarne in uno stesso articolo. Quindi sono processi comunque lenti, anche perché la redazione principalmente ora è a Barcellona. Barcellona è comunque una città che ha molti abitanti, che comunque è, diciamo, un peso importante dentro la bilancia demografica del territorio catalano e anche in parte del territorio dei paesi catalani. Questo porta anche una serie di, diciamo, conseguenze a livello di mobilizzazione e di organizzazione. Ci sono sicuramente molti più manifestazioni a Barcellona che a Lleida, che è un territorio sempre dentro la Catalogna, però un pochettino più periferico. Cercheremo, questa almeno è l'intenzione, sempre di riequilibrare questa bilancia e cercare di dare peso a anche quelli che noi, per errore, per ignoranza, per mancanza di contatti, non abbiamo trattato come vorremmo trattare. Certo. Gent sense casa i casa sense gent és normal en un país normal. Que el mercat sigui lliure i el poble esclau és normal en un país normal. Busques feina normal, això és normal en un país normal. Que pocs decideixin per tots és normal en un país normal. Paga impostos que financen guerres és normal en un país normal. Que l'aliment que ha de nutrir tan malalteixi és normal en un país normal. Vendre el territori el millor postor és normal en un país normal. L'egoisme és normal en un país normal. L'opressió és normal en un país normal. Dominació, explotació, submissió, competició. Normal en un país normal, en un país normal. Volem ser anormals en un país normal. Volem ser lliures, diferents, alegres, dissidents, autogestionaris, folls, rebutjant estat poder, compartint des de l'arrel. En un país normal, anormal és estimar. En un país normal, anormal és transformar, cooperar, compartir, repartir. És normal, volem ser anormal. Ci hai parlato del che la diretta, insomma, lavora con i movimenti sociali, scrive dei movimenti sociali, cose di tutto quello che succede. Com'è il rapporto con i movimenti sociali? C'è sempre grande sintonia. Da premettere che tutti i compagni e le compagne della diretta fanno parte dei movimenti sociali, ecco, questo lo volevo dire per onde evitare. Sì, allora, diciamo che noi come, diciamo, giornale dei movimenti sociali e parte dei movimenti sociali sappiamo di avere buone relazioni con tutti, cercando di anche mantenere una pluralità. È anche vero che non sempre, diciamo, le relazioni ottime, perfette, sono fattibili con tutti per questioni personali, per questioni di divergenze ideologiche. È chiaro che ad esempio un giornale a volte può entrare in contatto in maniera, diciamo, brusca con degli attriti rispetto a alcuni settori dei movimenti che ad esempio considerano che tutta l'informazione debba farsi solo dai movimenti, non ci debba essere un collettivo specializzato nella comunicazione. E quindi non esiste sempre un'eterna sintonia, esistono però sempre, almeno l'intenzione da parte nostra, di poter cercare di parlare di tutti secondo il modo in cui noi vogliamo farlo, quindi con un giornalismo abbastanza critico e rigoroso soprattutto. Quindi le relazioni che cerchiamo di avere con i movimenti sociali è quelle di dare voce a tutti in funzione anche dei dibattiti che si formano dentro e fuori i movimenti sociali. Non sempre a volte le relazioni sono ottime, perché ci sono delle divergenze, i movimenti sociali non sono assolutamente eterogenei, lo sappiamo benissimo, e come ci sono delle tensioni in alcuni settori dei movimenti sociali, quello che noi cerchiamo di fare è ad esempio portare il dibattito. L'esempio che vi ho fatto prima sulla questione della prostituzione, ad esempio, è dentro lo stesso movimento femminista un punto di scontro molto importante. Quindi noi in questo caso qui non possiamo metterci come giudici o essere contemporaneamente, diciamo, essere amici di tutti, anche se due si odiano in maniera profonda. Quello che possiamo fare è mantenere buone relazioni e, se c'è un dibattito, portarlo, perché poi la gente rifletta, decida e pensi. Certo. Senti, tu prima hai parlato di questo premio che la diretta ha avuto a Barcellona sulla questione dell'acqua. Io però, rispetto alle inchieste, una delle inchieste che secondo me sarebbe molto interessante sviscerare e parlare un po' in Italia, anche per tutto quello che succede e come arrivano le cose in Italia, è La Defensa, che parla un po' dell'apparato repressivo dello Stato spagnolo, come questo abbia agito contro gli indipendentisti catalani e di tutto il processo e il post, adesso non so come dirlo, non voglio passare per postmoderno, comunque il dopo 1 ottobre, ecco, diciamo così. Ci spieghi brevemente il contenuto di questa inchiesta? Allora, diciamo, noi abbiamo iniziato a fare un primo numero di questo supplemento speciale poco prima dell'1 ottobre, si chiamava Disobbedienti, in cui era un supplemento speciale di 100.000 esemplari. Noi normalmente ne facciamo 3.000 ogni 15 giorni, quindi è molto al di sopra della nostra portata normale. Abbiamo cercato di portare una riflessione a tutte le persone, possibilmente nel territorio catalano e non su cosa voleva dire essere disobbedienti, quindi parlare di altre lotte di disobbedienza. Quest'anno, guardando anche la situazione politica, abbiamo deciso di rifare questo esperimento comunicativo e di riflessione collettiva con giustamente La Difesa, anche perché dal nostro punto di vista, con le divergenze che abbiamo interne, consideriamo che lo Stato spagnolo sta essenzialmente compiendo una serie di atti di repressione, soprattutto giuridica, a una serie di persone per il fatto stesso di aver cercato di organizzare un referendum. Quindi cerchiamo di spiegare una serie di cose che sono per noi abbastanza interessanti. Il primo è come funziona questa dinamica repressiva, quindi chi sono gli autori essenziali del processo che si sta facendo all'indipendentismo e ai prigionieri politici catalani, anche spiegando che in realtà ci sono forti legami tra loro e tutta una tradizione culturale politica franchista. Poi spiegare ad esempio chi è la parte civile, che è quella che ha spinto buona parte di questo processo, che è il partito di estrema destra Vox, che fino a poco tempo fa nessuno assolutamente conosceva, perché l'estrema destra nello Stato spagnolo, sempre diciamo a livello di discorso, è stata coperta dal Partito Popolare, soprattutto nei suoi anni di maggioranza assoluta, in cui cercava ad esempio di proibire l'aborto e cose varie, però nessuno ne parlava, mentre noi continuavamo a parlare di Vox, ne abbiamo sempre parlato, e ora è un attore abbastanza importante che sta facendo la sua nuova campagna elettorale per le prossime elezioni, chiaramente su questo processo, per cercare di prendere più voti possibili. E per noi è preoccupante il fatto che un partito di estrema destra cerchi di guadagnarsi voti e potere a costo della vita di altre persone. Dico vita perché con pene di 30 anni parliamo veramente di distruggere una vita. Poi anche parliamo non solo anche di tutti i problemi, diciamo, legali che si stanno svolgendo dentro il processo, come ad esempio il fatto che buona parte delle testimonianze accettate dall'accusa sono in realtà gli stessi poliziotti che hanno scritto tutti i referti per l'indagine preliminare, quindi in realtà si genera una contraddizione a livello legale che tu sei quello che dà l'informazione al giudice per fare tutto un impianto accusatorio, poi contemporaneamente sei anche il testimone di punta dell'impianto accusatorio, quindi già di per sé ci sono una serie di problemi, senza anche poi contare tutti i vari rimbalzi tra Audienza Nazionale, tra Tribunale Supremo, tra Tribunale Superiore della Catalogna, per la varia causa in cui non si capisce ben bene e alla fine si è deciso che il processo lo farà il Tribunale Supremo, che è uno dei massimi organi del potere giudiziario spagnolo, quando in realtà alcune di queste cose sarebbero state potute adattare dall'Audienza Nazionale, dal Tribunale Superiore, dipende da come è sempre stato interpretato. Quindi noi critichiamo questa cosa qui e dall'altra parte vogliamo anche generare una rete di contatti nell'ultima parte di questa defensa, in cui abbiamo intervistato con delle piccole domande 13 voci internazionali che potessero dare la loro opinione riguardo cosa sta succedendo, da Noam Chomsky a Henry De Luca, no? Il nostro Henry. Filigrana Pastore, quindi gente degli ambiti dei movimenti sociali internazionali più ampi possibili, o con contatti o con delle visioni critiche che potessero dire quello che pensano a riguardo, anche per permettere un pochettino di riflettere su molte cose da parte delle stesse persone che sono a sostegno o sono critiche rispetto al processo catalano. Quindi questo è stato, diciamo, il nostro grosso lavoro, che ha prodotto alla fine, se non sbaglio, un supplemento di 28 pagine, che è quasi come un numero ordinario nostro di 32 pagine. Senti, proprio parlando di repressione, quello che ci stavi dicendo, poi uno guarda il panorama qui nello Stato spagnolo e non è che c'è molto da ridere, c'è gente in carcere. Non so, in Italia magari questa cosa si conosce poco, però in carcere è un esilio per un Twitter, persone che vengono giudicate dai tribunali per la loro opinione, e carcere preventiva che dura un anno. Tu pensi che c'è un pericolo, come giornalista e come fotografo te lo chiedo, un pericolo non solo di libertà di stampa e di espressione nello Stato spagnolo, ma ci sia un pericolo veramente di fascistizzazione e quindi di repressione acuta nello Stato spagnolo in questo momento? E questa è una mia opinione personale, quindi non posso parlare come diretta. Sì, volevo sapere la tua opinione personale, proprio come fotografo e come giornalista, insomma. L'opinione personale è che il Stato spagnolo si sta sviluppando una regressione democratica rapidissima, che quindi ci porta in epoche, diciamo, quasi a contatto dell'epoca, diciamo, della transizione. Quindi ci stiamo avvicinando sempre di più vuole dire una rifranchizzazione, però alcuni processi che ricordano moltissimo l'epoca franchista, stato franchista, dello Stato spagnolo. A livello di informazione ci sono dei problemi abbastanza evidenti, abbastanza chiari, che sono stati fatti paradossalmente non solo dall'epoca attuale, in cui il movimento indipendentista ha, diciamo, che ha messo in crisi la struttura nazionale dello Stato spagnolo, e che quindi è stata utilizzata dai gruppi di estrema destra per prendere più voti, per prendere più peso politico e cercare di organizzare questa tendenza ad andare verso destra. Io considero che in realtà buona parte di queste cose erano già presenti, erano già latenti dentro lo Stato spagnolo, che non ha mai compiuto una pulizia dello Stato profondo, del Deep State, con una falsa transizione democratica, in cui ha fatto un cambio di facciata, è sembrato molto più, diciamo, democratica, socialista, anche venduto un'immagine, soprattutto in Italia, soprattutto negli anni 2000, anche grazie a Viva Zapatero, il documentario della Guzzanti, e il Toro Spagnolo, di Fabio Volo, e tutta una serie di altri immaginari collettivi che sono stati costruiti, in cui in realtà la Spagna era un paese democratico in cui ci stava bene. In un breve periodo sì, perché c'è stata un'esplosione economica che ha anche portato, diciamo, una redistribuzione di parti sociali, però in realtà non ha mai risolto le problematiche più profonde. E quindi nel momento in cui si trova una situazione di regressione, diciamo, economica, si inizia anche una regressione, diciamo, dal punto di vista sociale, democratico, quando si vanno a toccare un pochettino queste parti più profonde. Quindi noi come diretta in realtà siamo abbastanza coscienti del fatto che sempre siamo stati, diciamo, in prima linea del fronte contro, ad esempio, degli organi di repressione dei movimenti sociali, che sono la polizia, qui concretamente i Mossos da Squadra, però siamo coscientissimi del fatto che in tutto lo Stato spagnolo la cosa è ancora più forte. E quindi c'è questa tendenza. Per me il problema principale è non solo a livello dello Stato spagnolo, ma anche, diciamo, a livello, diciamo, del territorio europeo, anche perché quando uno, diciamo, dei territori che comunque è sempre stato nell'immaginario come un posto abbastanza tranquillo, di feste, di divertimento, inizia ad avere una caduta così grave in cui, come tu hai detto correttamente, fare un tweet per sfottere una persona che è morta negli anni 70 diventa un atto, diciamo, penale e ti mandano in carcere, fare una battuta contro il re diventa un atto penale, quindi finisci in carcere pure per quello. La situazione indica un problema abbastanza grave a livello di valori democratici, che la strada spagnola mostra sempre di più non avere e non aver mai avuto, ma avere semplicemente ben tappati in epoche di maggiore tolleranza, perché se lo poteva permettere. Situazione paradossale che queste critiche alla corona, quando venivano fatte negli anni 70, nel periodo della transizione, quando tutti guardavano cosa stava succedendo qui, venivano tollerate. Le stesse battute fatte dei tweet sono battute fatte negli anni 80 e non succedeva niente all'epoca, anche se ci sono stati poi dei tentativi di colpo di Stato falliti, giustamente il 23 febbraio, mi ricordo, quindi è una questione di visione, diciamo, collettiva, europea, internazionale, su quello che sta succedendo qui, e fa che in realtà di regressione non vengono eccessivamente considerati da parte di quello che succede fuori dallo Stato spagnolo, perché è una delle questioni, giustamente, l'indipendentismo. Se non ci fosse l'indipendentismo, forse qualcuno se lo cagherebbe un po' di più, anche perché si vedrebbe, diciamo, come possibile futura vittima. Ora, nell'ignoranza generale, molti pensano che gli indipendentisti, che sono delle persone cattive, che vogliono l'indipendenza in maniera non solidaria, non fraternale, non internazionalista e quant'altro, però in realtà noi della sinistra moderata non avremo problemi, in realtà succederà anche a loro, nel senso, dal mio punto di vista, se Vox arriverà al potere con il Partito Popolare, ci sarà una maggioranza di estrema destra, sarà pure peggio per loro, e allora succederà quello che succede sempre, che le persone che hanno già sofferto la repressione saranno le persone solidarie, e le persone che loro capiranno che in realtà anche noi, anche gli indipendentisti, con noi indipendentisti, anche noi che siamo vicini all'area indipendentista, abbiamo delle nostre ragioni di criticare questo Stato spagnolo che è in regressione continua e abbastanza profonda, e soprattutto con una velocità abbastanza preoccupante. Ho capito. Va bene, Victor, sei stato chiarissimo, gentilissimo, come sempre. Victor è collaboratore anche continuo con Radio Onda Rossa, quindi questo lo possiamo dire, no? Senza problemi. E niente, ci sentiamo presto. Ti ringraziamo tutti e tutte da Radio Wombat e buona lotta.